parlavano i tamburi. Rideva l'empio mostro, rideva già la sua preda pronta a guerrare. Sentivo, sì, colpo sovrano di nasi, e mi succedò. Per me il bilimo tutte morte di sangue.